ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Sedicesima puntata. Ferranini era lucido. Pensò: siamo in due qua dentro a consumare aria. Non c'è più aria. Capiva che per aprire la porta bisognava che lui si alzasse. Non era possibile. Ferranini sentiva l'affanno aumentargli. Cercava aria a bocca aperta. Riconosceva l'odore delle scarpe bagnate, dei vestiti bagnati e un altro odore, pungente. Alcol doveva essere. Sei forestiero, andrai in cerca dei tuoi paesani, ma loro non ti rispondono nella tua lingua. E prima di conoscerti chiederanno nei negozi del quartiere quanti dollari spendi. Dopo ti conosceranno se avrai trovato un posto dentro la macchina. E a seconda del posto che avrai trovato. E se non lo trovi, qui ti danno anche da mangiare, ma non ti trattano come un essere umano perché non lo sei. Tu per primo non ti sentirai un essere umano. Mettere fuori roba e consumarne, questa è la tua vita. Produrre e consumare. Quando non servi più a questo, torni a essere un'ombra. Ci sono le ghost town nell'ovest. Sono città, ma città vuote, abbandonate, che alla macchina non serviranno più. E così ci sono i ghost people. Imparerai. L'individuo parlava e beveva. Cavava la bottiglia, ne tirava una sorsata. Del liquido cadde a bagnare Ferranini. È ubriaco, pensò lui vagamente. Hai visto? La polizia non si muove. E siamo diventati selvaggi. Peggio, pulviscolo, quello che io chiamo pulviscolo sociale. Io e te stasera siamo soli e abbandonati, soli, come nell'antica foresta. Perché c'erano barbare foreste qui dove siamo, con dentro qualche indiano spaurito. Ci sono case lì davanti, ma è inutile andare a bussare. Ognuno nel suo fortino, ognuno chiuso a tutti gli altri. Domani giocheranno sui campi verdi belli sciati e tu diresti che sono amici fra loro. Stasera non si conoscono. Ci sono tutte le libertà, beh, c'è anche questa, di non vedere il tuo prossimo quando non c'è convenienza a vederlo. Tu sei polacco, italiano, jugoslavo, imparerai questa libertà che al tuo paese non c'era. In Colorado l'estate scorsa ci ha battuto il terremoto. La gente si è alzata di notte, i turisti accampati e sono fuggiti sulle auto. Un collegio era crollato, una scuola con tanti ragazzi e i ragazzi continuavano a urlare, a piangere sotto i muri crollati mentre le auto passavano. I giornali hanno scritto il panico. Ma già, tu che cosa capisci, povero derelitto? Ferranini mosse una mano, gli toccò la gamba. Capiva. Le parole gli si tracciavano in uno sfondo oscuro con uno strano rilievo. Gli pareva di leggerle, non di udirle. Ma sapeva bene di non sognare. L'altro, che doveva essere alto e grosso, cercò pure di piegarsi. Prendi, prova a bere. Ma anche più in fondo, un pensiero angosciato, non un sogno, batteva in lui. Poneva una domanda o la abbozzava. Era come se lui dovesse scegliere. Scegliere ancora, una strada o una soluzione, decidere. Su quel residuo di volontà si stendeva la fatica organica. E questa era senza sofferenza. Una facile rinuncia, un ritrarsi. Aveva la guancia appoggiata alla parete, in basso, gelida. Vicino al suo orecchio crepitava fitta la neve. L'uomo si chinò, gli accostava al viso la bottiglia. Ti aiuta a non morire, manda giù, stupido. La clinica John Morgan non era distante, un quarto di miglio. Ce lo portarono senza nemmeno caricarlo sull'ambulanza. E lui sempre presente, attento. Gli dispiaceva che lo separassero dal suo compagno di quella notte. In realtà era rimasto in sua compagnia meno di 2 ore e non erano ancora le 11 quando lo portarono via. La diagnosi, piuttosto sommaria, del medico di guardia fu infarto cardiaco. Venne corretta il mattino dal titolare del reparto, a cui era stato dato in consegna il ricoverato. Questi non aveva riposato bene né accennava a riprendersi. In attesa di maggiori accertamenti, il dottor Wiener segnò sulla cartella collasso circolatorio da defatigamento, probabile cardiopatia inveterata. Non mancò di aggiungere sospetto etilismo. I panni bagnati di Ferranini mandavano odore di alcol. Da intenditore, Wiener aveva precisato cattivo cognac spagnolo. In quanto alla valigia, era già stata esaminata dall'amministrazione. Giustificava, al pari di altre circostanze, qualche dubbio sulla qualità di membro del Parlamento italiano del ricoverato, desunta dalle carte personali che gli erano state trovate indosso. Elegante, grigio e tossicoloso, americano di remota ascendenza svizzera, Wiener serbava una viscerale antipatia per gli italiani. Alla fine della guerra, l'esercito lo aveva dimenticato 18 mesi in Sardegna a fare la campagna contro malaria e tracoma. Nel rientrare nella camera a 2 letti, dove Ferranini stava da solo, disse forte: «Quest'uomo ha un permesso di soggiorno per 1 settimana, non penserà di eluderlo». Lui si mosse, mugolò qualche cosa. Aveva capito e avrebbe voluto dire: «Me ne vado appena possibile, anche domani», ma non aveva fiato. Più tardi, Wiener incontrò nel corridoio il collega cardiologo, Newcomer, che usciva dalla camera con in mano, ancora umide d'inchiostro, le schede elettrocardiografiche di Ferranini. Riferì al collega la diffida che aveva dato allo stesso Ferranini. «Pare che sia un uomo politico», disse. «Ma non fa niente, per me uno straniero è sempre uno straniero». L'altro, più giovane e, come anche succede, più sensato, gli ficcò gli occhi in faccia. «Per me, medico, un ammalato è sempre un ammalato, venga di dove vuole». L'ospedale John Morgan è un insieme di edifici in mattoni e pietra, non grandi e di costruzione recente. Fra aceri e frassini, autenticamente silvestri, affacciano la rusticità accademica del loro stile georgiano. Il più vicino a quello dove stava Ferranini è il Green Pavilion, scrupolosamente verde, tutto rivestito di edera e vite vergine. E tra i due, a livello del terzo e ultimo piano, una loggia coperta fa da passaggio. Lungo le vetrate della loggia, piante in vaso e poltrone si alternano ai radiatori. La neve, la mattina del 28 febbraio, ingombrava in parte le vetrate, ma il cielo si era ripulito e il sole già rosseggiava alle cime degli alberi. Per amore di quell'edera e vite vergine, Nancy aveva chiesto di farsi trasferire al Green Pavilion dopo che si era sentita meglio. Le forme vegetali decorative l'attiravano sempre. Adesso, in piedi a metà della loggia, stava a guardare attraverso i vetri. Si domandava quale delle finestre dell'edificio vicino potesse essere quella della camera di Ferranini. Aveva terminato la prima colazione e appena accesa la prima sigaretta. Una donna nei suoi 35, pallida e appesantita dalle 3 settimane di malattia, ma bene avviata a rimettersi. E piacevole, con ciò che ha una donna di deludente quando piacere non le interessa più. Le 2 mani puntate alle anche, sulla vestaglina chiusa, con cura e quasi castigatezza. Le gambe divaricate per un solido appoggio, potevano mostrare una certa puntigliosa fermezza anche in quell'attesa. Il viso no, lo variava qualche cosa di sospeso e di labile, come di un sentimento non chiaro, elusivo, disposto a sfumarsi e a smentirsi, che può essere del resto la fickleness, svagatezza delle irlandesi. Dicono di loro in America, forse adulandole, prima le seppellisci, poi le capisci. Della sua Nancy, in altri tempi, Ferranini pensava, probabilmente non a torto, se non altro è sincera. La sera aveva ripreso il giornale, a letto, per mettere gli occhi, a caso, sulle 10 righe di una notizia di cronaca. Straniero bloccato dal blizzard in una cabina telefonica, accolto in stato di assideramento al John Morgan Hospital. Il cronista commentava: il piccante nella storia è che questo derelitto italiano, al quale polizia e sanitari del Morgan hanno prodigato le più sollecite cure, pare appartenga alla Camera dei Deputati del PC. È un big shot del comunismo di oltreatlantico. Nancy, più acuta, si era detta subito questo: piccante è che il big shot comunista sia stato in procinto di cadere vittima di uno sciopero voluto dai sindacati operai. L'emozione di lei era stata sopportabile. In complesso, le reazioni immediate furono le seguenti. «Voi avete in casa da ieri il signor Ferranini?» aveva inquisito per telefono la direzione del Morgan. «Dico l'onorevole Ferranini, da Roma, Italia!» La direzione era costretta a confermare. «E dunque? Il signor Ferranini fa 4.000 miglia per visitarmi? Io sono la signora Ferranini, sto qui e voi non mi avvertite?» Mi rallegro col vostro ufficio relazioni umane, se ne avete uno, e se non lo avete, istituitelo. Quelli presentarono le loro scuse. La fama di lei come pubblicista e polemista meritava qualche considerazione. Poi Nancy chiamò il reparto, si fece venire il medico addetto. Dov'è il signor Ferranini? Cosa fa e come sta? Posso venire subito a vederlo? Chi parla è niente altro che la signora Ferranini. Bene, il suo Ferranini è in difficili condizioni, rispose il dottor Wiener. Non può vederlo. Lei, per la verità, balzò dal letto. Ma se c'è solo un assideramento? Wiener non aveva vocazione per gli altrui casi patetici. C'è un collasso cardiaco. Il soggetto non ha perso coscienza, così che le emozioni sono da evitare. Assolutamente. È mio marito e non stiamo insieme da 13 anni, quindi potete aspettare sino a domattina. Domattina le saprò dire. Tornando a telefonare il mattino, verso le 7, Nancy ebbe notizie migliori. Dopo altre telefonate le diedero il permesso di farsi vedere. Era mezzogiorno. Ferranini aveva riposato tutta la notte. Anzi, veramente dormito, quasi 10 ore, e newcomer poteva compiacersi di aver scelto il rischio calcolato, l'ipnotico a doppia dose. I fatti cardiaci specifici erano in regresso, scongiurato l'edema del polmone. A sorprendere i medici fu la lucidità dell'infermo. Si era svegliato, lo stavano alimentando. Domandò se il presidente Eisenhower fosse intervenuto per la composizione dello sciopero. «Lei è un leftist, vero?» disse newcomer scherzando. Ma nel gergo americano, leftist ha un significato più vago, letterario, che non da noi uomo di sinistra. Ferranini mostrò di ricordarsene, perché precisò «Io sono per quelli che lavorano». Intervenne Wiener, severo. Non lo affaticare, quest'uomo ha 70 di pressione. Speravo fosse anche meno, disse allora Ferranini, che aveva sentito, e smise di bere il suo succo d'arancio. Newcomer non si meravigliò, e bisogna dire che avesse del fiuto, quel medico non ancora quarantenne, figlio e nipote di pescatori di aringhe. A dispetto del rapido miglioramento, gli pareva che quel malato non aveva volontà di guarire. Si era staccato dalla vita. Ma newcomer dedicava ai malati un'attenzione viva e comunicabile, penetrante, in cui si negava il suo pratico scetticismo di uomo non molto convinto dell'umanità degli uomini. Wiener intanto era uscito con l'infermiera. Lei sperava di stare peggio? Domandò a Ferranini. Un dottore mi ha detto tanto tempo fa: hai il cuore stanco, se sta fuori col blizzard ci lascia la pelle. E invece va a finire che me la cavo. Newcomer, che era un bevitore di tè, se n'era fatto portare e stava lì con la tazza. Gli prese la mano, gliela strinse. A lui successe quello che non succedeva da un bel pezzo, da quando non era più un ragazzo. Gli venne da piangere. «Ho vissuto in India», disse Newcomer, «e il tè di Burma è il migliore del mondo. Lo assaggi, adesso gliene mando». Ferranini accolse il tè con trasporto. E sì che non ne prendeva mai. Poi ci fu l'incontro con Nancy. Lui la guardava. La guardò a lungo, ma non parlò molto. L'altra sera le disse come Nancy fu seduta. Avevano risposto che tu non c'eri. Che nome hai dato? Mrs. DeMar. E io, disse lei, sono la signora Ferranini. Lo disse in italiano. Aveva studiato l'italiano, lo capiva discretamente. Sicché lui si servì dell'italiano mentre lei parlava nel suo ben modulato inglese dei bostoniani colti a cui era rimasta fedele. A Ferranini quella pronuncia, quella voce, sembrarono suoni che venissero da lontano, lontano. «Ho facoltà per legge», Nancy spiegò, «di usare se mi piace il mio nome di maritata. E mi piace di usarlo». Ferranini rimase zitto un po'. Poi disse: «Stai meglio, si vede. Ma che cosa hai avuto?» «Nefrite, conseguenza di una intossicazione. Sono stata per andarmene, sai». «Davvero?» fece lui piano, riflessivamente. E le domandò di suo padre: «È a casa, a Camden. Non è in condizioni di muoversi. Vengono i miei fratelli. La mamma, tu sai, è morta nel 1954. Ferranini non lo sapeva. Nessuno lo aveva informato. Papà, un ictus cerebrale, 2 mesi fa, per Natale. Pareva che morisse anche lui, ma si è rimesso. È il più forte di tutti. Alla ditta ora c'è Salvatore, mio fratello. Il business va avanti bene, pare, come sempre. E la fattoria?» Nancy non aveva compreso, ripeté con fatica. «La fattoria, l'Old Laurel Farm». Non avrebbe voluto tirare fuori quella parola. La risposta che Nancy doveva dare l'aveva immaginata, preveduta, tanti anni prima, a Reggio, quando ancora l'Old Laurel se lo veniva sognando dalla passione. «Non è più roba nostra», disse lei, difatti. Ferranini capì, oscuramente, e capì che lui era venuto a cercare Nancy soprattutto per quello, per farle quella domanda. La risposta l'aveva conosciuta in anticipo. Tuttavia lo colpì. Anche l'Old Laurel era finito. Le sue mani passavano, ripassavano sul lenzuolo, dal mento al petto, con un gesto stanco. Pietà e pena, tristezza dell'amore rimasto là, della loro stagione. D'improvviso un bisogno lo prese, come di opporsi. Il sole batteva sulla finestra. E l'Old Laurel non era più distante come ai tempi di Reggio. Lui lo poteva raggiungere, provare a tornarci, provare. C'era una striscia di sole sul letto. Lui doveva muoversi, andare. Il gesto delle mani cessò. Nancy si accorse che cercava di tirarsi su, le braccia rattratte, la testa affondata fra le spalle. Poteva essersi affaticato a parlare. Nancy ebbe paura. Lo vedeva terreo, richiamare l'aria per la bocca socchiusa. Suonò il campanello. Non contenta, corse a chiamare l'infermiera. «Stia tranquilla», disse Miss Joy, dandogli un'occhiata. Lo aiutò a tirarsi su. Gli fece bere il cloralio. Lui si sforzava di sorridere, di rassicurarle. «Niente, sto bene». Parlava italiano e in più non aveva forza di parlare forte. Nancy non capiva. «Rimanga, mi faccia il favore», disse all'infermiera. «Ho idea che è peggiorato». Newcomer non credeva nei tranquillanti e sedativi comuni e li definiva blanditori di sintomi. ordinava il vecchio cloralio idrato che per abbattere l'emotività, diciamo pure gli affetti, inclusi i più patetici e sinceri, ne cerca l'umile radice organica, midollo e encefalo. Ferranini ingollò 2 dita d'acqua con 30 centigrammi di cloralio e l'Old Laurel risprofondò fra le nebbie del lago Erie. L'amore avrebbe riavuto il suo posto fra i tollerabili ricordi. Poté gustare i noodles in brodo e la gelatina di frutta che l'infermiera gli presentava. Poi si assopì. Nancy metteva a bagno, in 2 bicchieri, i calicanthus del Giappone che aveva preso con sé dalla sua camera. Eseguì quell'operazione con tenerezza, lanciando ogni tanto uno sguardo indubitabilmente affettuoso, coniugale persino, a Walter. Infine se ne andò, perché era convalescente e doveva rendere conto dei suoi passi al medico del suo reparto. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.